solo che è inutile che vai in certi paesi che non ne comprendi nulla, magari di inglese, di cosa, perché parlano altre lingue. È un casino, Vabbè, certo, devi essere preparato, ma inglese, francese, sono le lingue principali. Poi c'è quello che parla un po' meglio anche altre lingue. Però basta, ti fai capire. Thank you very much, 73, bye bye, segnale 59, 52, 53, e poi va in culo. Ma qua per il bella! Paga, io ce la non con qua, poi io mando anche un messaggio, così mi preparo. Anzi, qui appunto, inizio a partire. Ma sì, che per la dici qua che vuoi tagliare il culo? Sì, a più non voglio dire. Fai vinai, fai giù, fai tri, metti il culo lì. Avere passione, passione, voglia e soprattutto di essere preparato, eccetera. Io non ho mai avuto né voglia né passione, nessuna preparazione, sinceramente parlando, quindi lascio fare a chi lo sa fare, perché è un grande lavoro, vabbè, comunque io ci sono, non ci sono. Progetto ancora ce la posso fare, ma non me ne ha fatti un dato. Ma mi piace qua, perché mondo è mondo, e qua rimango. E questa volta non lo vivo fino a giungla, perché negli 8 non c'ho più niente. Però non c'ho manco le nuvole lì, non c'ho più niente. Tolto anche l'antenna delle nuvole lì, quindi quella che c'è per il BMR. Andiamo Varietto, che fa prendere? Mi ascoltano a voi. E manco voglio più nuda là. Tutto venduto. Ma caricato è questo portatile? Io l'ho caricato. Sarebbe ricaricato. Non voglio fare. Stavo scattando un po' in 160 che stanno chiacchierando. C'è un po' di rumore, ma ce lo si sente bene. No, che frequenza è? 1847. 1847. 10, siamo arrestati, no? Già ci sentiamo dopo. Ma comunque domani ce la facciamo a fare qualche prova, Atla. Ce la facciamo, si scarica, sì. Sicuramente sì. Io l'ho caricato. Poi mi direi come me lo vuoi muovere, poi te lo sai. In digitale io non è che sono molto bravo. Sì, ok, va bene allora, dai. Ci sentiamo domani, anche più. Ciao Antonio, ciao Luca. Buona... buonanotte, perché è già notte. Alle prossime, ciao. Ciao, ciao Gianfra. Poi ci aggiorniamo domani, ciao ciao. Gianfra, ce la risentiamo. Ciao ciao. Sentiamo quanto tanto quando a ritirare del materiale, trovare proprio subito. Sì, ja. Attimo di bianco per me. Vabbè, sai che ci vuoi fare? Claudio. Ho fatto un attimino a fare una commissione, è andato. Oh, io. Ah, sta troppo bene in casa. È tutto qua. Ah, oh, che caldo. Faccio del coprifuoco tra un po'. Io sono coprifuoco. Alle 10. Magari andiamo in gradicina, andiamo. No, si dice che non è un muro. Punto. Stava nel rotto di coglione invece un gruppo di fuoco. Aspettando la roba in mezzo, così faccio la punta alla mamma. L'avete chiamato produttore? Ma quella, capito? Che ne abusa la mattina che riprende la pastiglietta. Comunque sono calate, dai, già 200 e rotti, anche se un po' altina, comunque, meglio di 400. Arrivati in bocca a magnaggia. Ma che? Come si va a fare in butti, così è. Allora posso entrare in radio, la bombolina. Finalmente qui prima entrava. Vai, andiamo a vedere. Siamo a barricata una tassarista. Sono anche ho chiamato io. Quanto vai? Eia. Cosa hai buccio? Era già richiesta. Ho detto, cosa c'è in corso? Sassa di Giovanni Oggiotto. Allora, buonissima. Cosa? Bella già. Vabbè, da canzona. Ti devo messo a te musica sassarese, l'hai vista? Sì, sì, l'abbiamo anche ascoltata. E cavolo non l'ha vista. C'è su quel venditore, ha già preso 25 euro. È giù male tu che così guasto. Facciamo che sia il problema altrove. Che lui si è, non dico che si è levato da Facebook, ma da eBay. Però quella pagina lì l'ha cancellata. Se tu avessi dei problemi, un bel casino. Vabbè, pazienza. Però vedrai, se funziona, funziona, se non funziona, pazienza. Non vanno bene queste cose. Lui, un venditore, deve stare attento. Deve stare molto attento. Cosa vuoi fare? Sei guascio. La colpa non è la mia, no? Io vabbè, non mi sta ridendo. So finché funziona, funziona. Non c'è problema. Vabbè, non dovrebbe dare problemi. Ci sono in Cina a casa, ma ci mette troppo tempo. Me li avrei anche ordinati, due, tre. Ma ci mette un po' di tempo. Poi bisogna vedere se arrivi in burro. Non può arriverà, però gando. Arrivi tutti i barri dolci, come in tirocci di reginese. Ammando là. Buono, buono, cazzo, sono anche questa musica. C'è un coso, un bel to quanto dai cinesi. Gli ho chiesto, è una ventola, con questa ventola si vedono le immagini. E puoi caricare anche le foto. 100 euro costa. È un, si chiama un, non è un, ma, questa cosa qua, è un, non mi ricordo, come sto, guarda. Stavo guardando quel microfono, guardando. Ha tutto incorporato, vero? Ah, sì, un microfono di Marina. Eia. Allora, ci resi 4,25 euro, su internet 10 euro. Sì, cosa? Così, Guarda che zocca, Puoi fare karaoke anche con quello. Già lo so, già. Parlo per su cosa. Purtroppo sono cose che lascia il tempo che trova. Ancia Pugliato si già andava, certo non è, cioè non è una cosa professionale. Ma no, vabbè, non è cosa professionale, no. Ma domani lavori, sì? Certo che sì. Via. Ma su questo domani 28, allora fammi vedere, 28, 29, mercoledì andiamo a fare la spesa. Giovedì è già troppo tardi, è un casino se no. E poi l'uno, questo venerdì è capodanno, questo venerdì che viene, cioè la prossima settimana, a domani. E poi c'è, vabbè, allora c'è uno che è festa, poi mercoledì 6 è festa, e poi basta, finita le feste. Poi gennaio, poi febbraio, poi marzo, poi aprile, poi maggio, poi giugno, poi luglio, a mare, agosto, a marzo. Beh, certo. Bisogna approfittarne. Io sono stato più a casa che altro, è la verità. Era proprio necessario uscire, non sono uscito per niente. Non me ne affittia nulla di qua in giro. Però sinceramente mi è servuto andare un po' al mare, che faceva anche bel tempo così, anche a fare una passeggiata mi è bello. Eia, aspetta un attimo, ho detto basta, che sono messo appena a posto quella cosa lì, che cani macco, ho appena sistemato la cucetta con le copertine su e tutto un casino ho fatto il giorno, basta, aspetta tanto che la fanno insieme a me. Eia, vai. Vedi Freddy, salut. Vedi Freddy ha giudito. Dove? Eia, che ci ha pensato per tanto? Tu va con la bici. Poi qua su si fa dire va di ti valutare ma faccia fare galleggiente da ciao. Ho capito tu. Ma fai qua? Ti trovano galleggiando, ti trovano. Ho capito, ti trovano? Galleggiando. Se te la dimentichi qua aperto lucernaio. Ah, vabbè. Ma sto fatta nuovo, legno buono. Sì, tutta roba nuova. Quanto paghi a tu? 300 qualcosa. Chi è? Hai capito lui? No. Perfetto. 300 euro e qualcosa. Ah, vabbè. Sì, vabbè, nei buoni bugatti sì, però ci abbiamo un tetto. Vabbè, state bene. Ce ne sono cose, un fiago di guro a venire in chibi. Sì, un bel di fiago di guro. Preso, mi sono rimau mau, no qua c'è lo scaldabagno piccolo e quindi il gatto che andava bene a Ianna il gatto per un danfo, beh. Mamma mia, vabbè, provvisoriamente rimanete lì. Caffa, me l'ha giù minacciato 4 volte e me l'ha giù fatto alla fin fine, ma voi lo dobbiamo intendere, tu mi intendi? Manculo, cazzo, manculo, cazzo! Non me la giarre la Ianna, no? Ma lì sono pericolosi, mi ha detto. Non so, non è che ti va con i piedi in capo, ma lì si rimane in greffa. Sono cattivi, sono. E tu fai vita di nuda, poi certo si trompano le balle. No, a che la sa, ma la Ianna sempre a becca, un fiago. Un fiago di chi so dede, magna. Cioè io devo mangiare. Cazzo, devo mangiare, cioè io il tavolo ce l'ho vicino alla porta lì, Sonia Adam, fugni fiago. Due, tre, quattro volte, aiuta a uscire. Cioè, non vi dovete tenere la porta aperta di casa loro. Io qui ci do guetto, ne ha di uno. E facendo pure un metà cara. Oh, cioè, l'amore dove ti dico, cazzo, cazzo! C'è così per il bello, no? Ne ha boato, ha fatto un fumo, ma poi ne ha cavato pure un ubriaco di quella. Fatto? Sì. E non ti sentivo, aspetta. Ha già detto, da poi ne ha cavato, veramente l'ubriaco ne ha cavato. Ah, beh. E ti credo. Oh, via, va via. Se siamo quelli posato, mi so boccata di ora. Ma devi aspettare a Claudio. E così mi ho qua. Ho abbassato un po' lo squelch, anche se non fate troppo casino. E anche io ho sopra lo squelch. Tutto che. Cioè, se lo posso, me lo posso anche permettere adesso di abbassare anche lo squelch. Perché non ne ho più problemi col segnale. Il Typhoon non ce l'ha lo squelch. Ce l'ha, e anche l'hanno modificata. E vabbè, potevamo metterlo dietro un pomellino. Ma per carità, per carità, come da te, ha aiutato l'osso, quello si per i cani, vabbè, se ne sbranendo, idea. C'è di merda, basta. Oh no, chi su chi ti ha già fatto vedere il telefonino, eh? Cazzo, ogni tocco, ogni fumo che ha fatto. Ecco, era il bombettone. Sì. E te l'hanno ricordato un pacco in testa dei zuri, minchia, due bombe. E di chi ci sono? Era un gioco, cara. Capirà. È il mio fornitore. Cazzo. State per un italiano a B, italiano a B, stavate la vostra sarra a far sempre. E vedi a posti per un rifermo, e tu, cazzo, cazzo, un fiacco di fumo. Era un mezzo imbriaco però. E io li dimmi, e io non li tratta, no? Cosa? Sì, ma fa culo, ma fa culo! Ma ci ha fatto uno bisciunato dente. Basta, cazzo, non ne potevo più. Eh? Non potevo più. Non lo si immagina. Tu ne ha fiago di roba santia. Ah, ti no, nemmeno che devo mangiare i nocchi. L'altro giorno stavo per scendermi il tavolino o l'altro e mettermi dall'altra parte, che era un fiago che non si poteva assare. Se fiago c'è un bel. Cazzo, ma quando cozzineggia ne cozzineggia in roba frasica. Roba frasica. No, paura è. Ah, cacciole ne accogliene. Ah sì, non lo so. Tutta roba putrefatta, cioè roba bruciata. Ma come ti cazzo mangiano i chicchi? Boh. Secondo me trodieggia nel muro. Non lo so, ma che cosa succede? Io mi sicuro. No, non so, qua c'è un odore che non si può stare, la verità. C'è quello di Bedivella. Di guru pratico, eh. Insomma, fiaggosi, insomma, carità. Sono non bastano in chi mi spiaggia mia, quindi palloni, che ballacche, braccialetti, ogni fiaggo di sudore, di sostantivo. Fiaggo di zionda, vabbè. Carità, vabbè. No, veramente, ma io dico, cazzo, cioè, non dico io che è, però, cazzo, da, cioè, un po' garetto di che cosa, non riesco a capire. Troppo. Ci si riparareva tanto nei due mesi praticamente, si riparareva in nato. Davvero. di dietro l'odore della pelle, ma se che è tutto di pelle, cioè, ma guarda che anche noi se non ci laviamo, cioè, non ci si può tenere vicino, cioè, la stessa cosa vale anche per loro, perché non è vero, io ne ho sentito qualcuno che si è lavato e fiaggo non avvia in alto. Lo so, vabbè, che devo fare, purtroppo. Chiappa. Bacari dai, del grande fiago di guru. Mi ha dato mi buoni questa musica indiana, questa musica che buoni esse. E cure, cure bongo bongo. Allora, col bingo bongo, non ti cazzo. Inizi con i bonghetti, questa musica strana. Ma poi intendi. Ha detto cosa bisogna, indiani no che. Indiani. Sì, no, indiani sono troppi agosti, una volta ne ha già. Sono i nocchi mi pare in piena marmora. Mi ha già regato una bombola, chi dice, cazzo, no. Meno male che me l'hanno fatto lasciare, non si poteva già dare un viaggio. Ed erano indiani, erano. Casino. Ho questa gente, o ti mireva, boh. Allora, c'è anche di mireva. Un pakistano indiano, una roba del genere. Ma non sono talmente assuefatti, capito? L'odore di loro, non lo sentono neanche. E si che piace la roba piagosa, boh. Assuefatti. Se no questa famiglia che va via minore di fronte alla Tidotti già riconosci tu, Dio ce ne scampi, cazzo, che andrà bene la Ianna, sai chi si occupa per dente, sì. Lui lo fianco di guru era acuto, era da poi per la chiesa di osso che ne ci accapareva, ne ha dato, ne ha farratorio giù, c'è a chi tu che una sabazzona, gli facevano il rudubu di leva perché dice che gli scendeva l'acqua dentro casa, allora era una lotta incredibile, ma penso che siano ancora così a mozzi, a farratori. Dove fa? Sono i padri di mia cugnata. Cappa, però non è giusto però quello che gli faceva, la verità. Vabbè. Cappa. Non è giusto quello che le faceva quella di giù. Gli arrugiati che si occupava il dente. Moglie e marito. Ho capito che stai dicendo. Non sono più in pari, però. E già lo so, già lo so, è stato tutto un casino. Non ancora era in casa. Spera un attimo che te lo dico. Tanto è disciubando con questo baracchino. Cos'era tu? Periodo di zia che lo stavamo disciubando con questo baracchino. Disciubando. Così di zia. Ma già le 10 so. Già le 10. E noi ridevamo. Tu dei tempi che c'era il fratello, c'eri tu frequenta? Sì. Eppure io entravo ogni tanto alla cua, pigliava il baracchino da babbo. Fogliato. Sì, un altro po' di arrabbiare, pigliavo il bordazzo. Ero un po' di arrabbiare ogni tanto. Però ero più malandrino, vero? E gli altri poi si incazzava. Ma se non è che non mi idea. Ma io ando rosso, ma non dormi più. No. E boh, me lo rendo. Sì, chi su chi va in casa, così. Allora. Gli hai messo lo stesso nome della truccare? No. Però come si chiamava? Luna. Lei si chiama Dea. No. Allora. Orenta Dea. Non è Monella, Ciappa. Beh, lui mi ci sono sarrendi rocci. E va. Ti saluto. E domani a mattina sono a Rucucu. Dai, buonanotte a tutti, dai. Buonanotte. Anche gli ascoltoni. Ciao, ciao. Buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte anche a te. A domani, ciao. Ciao, ciao. bambolino, bambolino, cosa fai nel tuo giardino? Già dormito tu sì? Cariello, Lucariello, c'è qualcuno nel cestello? Vabbè, tutti a mamma siete andati. Nanna, nanna. C'è qualcuno sul canale 10, cambio. E beh, class. Ehi, io mi stavo provando il 430, se andava bene. Mi sono consultato, cazzo, ma gli butto i gufi, mi sono consultato. Bene, va. Mia bomba, che... Già va bene, già va bene, sono in cuffie, so. Si assomiglia alla voce. Intanto era poco voce. Sì, si assomiglia molto a quella di Luca con il typhoon. Sai che sono anche lontano, una trentina di centimetri. Che cazzo mi ha radio qui qua? La voce. La voce. Invece avete le C. La gente. Ora. Ho messo l'opera prima. Così deve essere, così, quando l'LC non esce dalla linea rossa, questa è la modulazione di questa radio. Ma è buona, Cla, spinge un bel... Deve spingere, questa è nata per spingere, capito? Questa è nata per spingere, e così deve essere, benissimo. Ho già mandato una foto del messaggio, dai. È entrata la nera. Eia, è arrivata, adesso gli ho detto, adesso salgo su un attimino, che avevo lasciato un casino nero, aspetta un attimo che sta scrivendo il telefono il mio socio. Ehi, fai. Che è avanti. Già, buonasera, ben ascoltato. Allora. Alla grande, no, non c'è problema, tutto K dell'oggero. Santiago 5, la radio un po' bassino, un po' disturbato, ma comunque lo sento. Ciao Gianni, buonasera. Cazzo di abbassaggio. Giù. Assolutamente, io come Simba conosco solo quello base, già basta. KK, avanti Massimiliano. Ehi, allora Cla, ascolta, ti volevo dire Cla, invece per il power tutto a posto, vero? Il power di quale? Di questa? Di quello là. Sì, a posto. Lo stavo controllando anche quel microfono, sembra tutto a posto. Non si sulla parte dove c'è il meccanismo dell'EPTT, e se non era cambiare il cavo sicuramente. Perché secondo me c'è il cavo o è mezzo rotto, cosa ne so, qua. Magari vuole tagliato, rifatto, non lo so, però dalla parte di su, non dalla parte di giù. Va bene, là, qua, io me ne scendo giù, mi mangio un morso, ancora non abbiamo cenato, noi stavamo aspettando che rientrava Daniela, là. Se in caso ci aggiorniamo dopo, se c'è qualsiasi cosa di Arusai, no? Ok? Ti saluto, e saluto anche a Gianni Capri 2, che lo sento un po' in mezzo al QRM, ma già lo sento, là. Avanti, qua, riprendi e aspetta il finalino, poi vado a cenare, là. Ok? Ciao. Vai tranquillo a cenare, Massimiliano, tranquillo, non ti preoccupare, già ti aggiorno. Ciao, un abbraccio e poi ci aggiorniamo anche domani, così facciamo qualche prova col tuo, ok? Buona cena, buon tutto e saluti a casa. Vai Gianni. Midland, l'Inuit, che sono quelli che mi piacciono di più. capito, sono quelli che mi piacciono di più, però anche quelli già lo uso, piano piano già lo uso, non c'è problema. Va bene, già, dai, io momentaneamente me devo allontanare, perché devo fare la navigazione a mia moglie. Se ci sei, ci sentiamo dopo, ok? Ti trattieni in piedi? Ehi, è già, dai, che metto a posto un po' la situazione a lei, poi già ritorno qua in stanza, ok? Ci sentiamo dopo, ciao. non lo so. Non lo saccio. funzionanti sono belle le radio, quando non sono funzionanti non ti tenere. No, quello che dico io, in linea di massima sono tutte funzionanti, dai. Però voglio operare con le pinze, perché c'è sempre quella che un po' o fischia o fa, capisco, non so. Infatti il fatto che ho preso un commutatore del cacchio, che non ti dico, me ne sono pentito, non ho speso molto, dovevo spendere di più e avere di più. Perché la terza commutazione c'è qualcosa che non mi convince e mi fa fischiare i vintage, capito? Quando commuto, infatti quando vado l'ora di che mi arrivi l'altro commutatore, quello grande, a 4, e io lo sostituisco, perché questa è una grandissima cagata. Thank you. Giaffuso prova. Già funziona, c'è Giaffuso, aspetta che c'ho, sta scoppiando questa radio, c'ho 20 ampere di assorbimento con 10 watt. Ho cacciato il Giaffuso, vediamo un po', mamma mia, che, ma da piangere mi viene, guardate. Non so se ce la fai, sono a capire che cosa, che radio può essere questo, questo è proprio un pezzo veramente della panacea, un pezzo da studio. Ma tu quella studio che c'ho io non ce l'hai, però non ce l'hai, mi ce l'ha Gianni Capri 2 che la sta riparando, è un Constat 23 Mark 6, non è né 25B né 35B. Forse ce l'ho, però è da riparare, però è diverso, è più alto. Non so se non sento più, se stai parlando, ma... Aspetta, Marco, c'ho qualcosa che mi convince qua. Aspetta un secondo. La controllo. Perché sta scaldando la radio? Se tutto andare, c'è la ventola già in funzione. Certo, questa. Aspetta un po'. Magari si sta dando a voi, due di stazionarie. No, c'è niente, le due. perfettamente accordato. Ma che cazzo, ma questa radio sono sempre un mistero. A me come mi ricevi? Bene, alla grande. Ma la modulazione com'è? Decente? La modulazione è normale. Questo è... Dov'è? È una radio degli anni 70. Ha il nome della radio che c'è scritto al centro, che è uguale al nominativo di un CD che c'era. Il display dei canali è verde. 23 canali. Poi, non so. Non te lo ricordi neanche tu. Marco, i nomi della radio, però sicuramente sono un po' distratto, però sicuramente la conosco. Che marca è? Se te lo dico già, si già arrivò. Si è distratto, questa, ma se sta funzionando bene, il modulatore esce bene. Segnale è fortissimo, come sempre, credo che se il pezziale non le ha, vai, male che vada si spegne, ma male andato proprio. 35B, cosa 35B? No, giù, niente, acqua, acqua, acqua, acqua. Ho detto, già il nome della radio che è scritto al centro è uguale al nominativo di un CD che c'era sempre in frequenza. L'indicatore dei canali è 23 canali, e l'indicatore dei canali è verde, con la luce verde, che piaceva tantissimo. Ok, va bene, no, non so, buonanotte, ci sentiamo, ciao ciao, ciao Claudio, ciao Marco. Vabbè, allora prima di andare a dormire te lo dico, giù. Tocca ai PV5024. Ce l'ho anch'io quello. Ne ho due qua, una dei rari veicolari che ho comprato decenni fa, perché veicolari non intendo, ne ho un po', ma non è che mi piace, ma questo mi piaceva particolarmente, questo è sempre rimasto un po' questo che per me era, non so, affezionato. Toccai PV5024, e funziona, come mi sentite, se mi sentite bene, il suo microfono originale, la sua staffa, tutto, ne ho due uguali, uno veramente, questo me l'avevo comprato perché quell'altro che funziona comunque ugualmente, ma avevano fatto un buco nel frontalino, ci avevano messo un interruttore, a me queste cose così non mi piacciono molto.